sentite? La campana la sento sempre perché abitando nella parte alta del paese sono vicino al campanile, quindi sento le campane che suonano il mattino, la sera, quando ci sono le messe, quando ci sono i funerali, quando muore più un persone. Disturbo o... No, la campana non è un disturbo, la campana è un bel sentire comunque, è la compagnia del paese la campagna, la sì. Campana. Quali sono i pro e i contro di dove vive? I pro sono in una zona tranquilla e silenziosa, il contro è che devo fare sempre una salita per arrivare su, a casa. I suoi vicini danno fastidio? No, i vicini non danno fanno nessun poco fastidio, rumore. Fanno poco rumore, è una zona molto silenziosa. Bene. È cambiato qualcosa da Lizzano? A Lizzano, da quando vive? Avendo la mia età ho visto tutta l'evoluzione del paese da quando Lizzana era un paese agricolo, ero piccolino, più piccolo di voi elementari, era un paese agricolo, c'era tutte le campagne. C'era meno case, più campagne. Meno case, c'era il centro storico, cominciava lentamente ad allargarsi con le nuove costruzioni e poi è cresciuta, è arrivata tutta la zona industriale negli anni 60, negli anni 70, negli anni 80 e adesso è come la vedete voi.